musica che sarà gestita per questo secondo spazio di Rai Stereonotte, da adesso quindi fino appunto alle 3, da Stefano Mannucci, a cui lascio la parola con l'augurio di buon lavoro. Rai Stereonotte. Un'altra luna gialla colpisce la notte con un pugno allo stomaco. Mi calo dalla finestra e giù in strada luccico come una moneta nuova. I treni che portano in centro sono stracolmi di tutte quelle ragazze di Brooklyn che cercano in tutti i modi di uscire dal loro guscio. Le saluti con un cenno della mano e si sparpagliano come cornacchie. Non hanno niente che possa un giorno fare breccia nel tuo cuore. Sono soltanto spine senza la rosa. Guardati da loro nell'oscurità. Oh, se io potessi essere colui che tu hai prescelto, piccola, non riesci a sentirmi ora? Ti vedrò questa notte sul treno diretto in centro. Ogni notte la stessa storia, e mi lasci solo e malinconico. So qual è la tua finestra e so anche che è tardi. Conosco le scale di casa tua e il portone. Cammino per la strada e oltrepasso il tuo cancello. E mi fermo sotto il lampione all'incrocio. Puoi guardarle mentre cadono, colpite tutte da un attacco di cuore, si attardano ai baracconi delle giostre ma non riusciranno mai a vincere te. Vorrei vederti questa notte sul treno che va verso il centro. Dove ogni notte è la stessa storia, perché mi lasci solo e malinconico. Ti vedrò questa notte sul treno diretto in centro. Tutti i miei sogni cadono come pioggia su di un treno diretto in centro. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night. I know your window and I know it's too late. I know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I stand by the light of a four-way. Watch them as they fall. Oh, baby, you're having heart attacks. They stare at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight? Downtown train. Every night is just the same. You leave me lonely when I see you tonight on a downtown train. All my dreams fall out.

la la la di da, la di da. You have grown. Cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. Di questa brown eyed girl, di questa ragazza con gli occhi color nocciola, si sono perse le tracce sul treno della notte. Così il nostro innamorato si aggira di vagone in vagone cercando di ritrovarla, chiede notizie a Van Morrison, che sta urlando, spergiurando di averla vista come ogni volta, perché lei sembra prendere questo treno per arrivare in città, lei che è molto coscienziosa e peraltro un po' timida. E il nostro povero protagonista si ritrova a questo punto senza più messaggi da diffondere, senza soldi in tasca perché le tasche le ha bucate, così come il suo cuore che sta sanguinando. Si trova un po' tra l'incudine e il martello. Stuck between a rock. Between the Rock and the Hard Place. Il nostro uomo col cuore a pezzi è veramente una situazione difficile, perché i controllori Rolling Stones sono saliti sul convoglio cercando di dargli la caccia, perché sanno che lui è un clandestino e forse uno che guarda con troppo interesse verso un sedile vuoto dove dovrebbe essere seduta una ragazza, della quale si dice che abbia un astuccio, un'agenda dove continua a scrivere le sue cose segrete che tutti vorrebbero leggere, ma nessuno riesce mai a sbirciare. E allora al nostro eroe non rimane che scendere precipitosamente per non correre guai maggiori e salire su un altro mezzo di locomozione, esattamente... Amare, amare, amare, amare, amare, Il libretto di circolazione di questa motocicletta è intestato a Lucio Battisti, ma il nostro eroe l'ha rubata ai nuovi proprietari, che sono i Litfiba, che sono dei tipi poco raccomandabili di notte, con quei loro giubbotti, i capelli lunghi, lo sguardo truce. Il nostro eroe peraltro non sa neppure guidare molto bene, non ha dimestichezza con la frizione, le marce, le due ruote, ma la necessità aguzza l'ingegno, perché lui ha assoluto bisogno di trovare quei fogli dell'agenda del diario segreto della ragazza. Lui che è disperato perché teme che in quei fogli ci sia una dichiarazione d'amore di lei verso un altro. Ma se così non fosse, se ci fossero soltanto delle poesie, dei racconti, delle elucubrazioni romantiche, lui non può farne a meno, e allora si ferma ad ogni pezzo di carta che svolazza per la strada, frenando, inchiodando ed inquadrando con il faro abbagliante. Ma non riconosce la calligrafia della ragazza con gli occhi marroni, che l'ha preso completamente. 1,51, you really got me. You Really Got Me. È in città, tra i bulli del quartiere, si è sparsa la voce che un tipo dall'aria dimessa e con il volto solcato di rughe di disperazione ha avuto l'ardire di rubare la moto di uno di loro. I Kinks si erano organizzati al suo inseguimento, ma non ci sono riusciti, perché un debuttante può più di tanti professionisti quando la velocità incombe il cuore, impazza. Little child, right to teach it. So go. the road.